Thank you. dawn will cover our branches, rising lately just to away. Tied upon all creatures, found a puddle to drown your day. Rest to get an answer, lend your ears to the obra sound. Lose the old claim farmer, stomp your flies and displace the ground. Dove piante nascondono il sole, in una grotta nascosta la vive un mostro che uccide ogni. Il corno ha suonato già, la caccia è iniziata oramai. Lo vedi tra i rami davanti a te, nemico in agguato, lo sai. Non vedi. We'll be right back. solo riuscissi a fuggire il bosco è più sicuro. Raggiungerò la foresta. Ma se il sangue che perde dovesse indicare la strada nel verde. Thank you. come un impiegato a far vedalgo a una bianca neve in una favola, direi per tempi che esistono soltanto nel ricordo come voi. Sappiamo di commettere e forse inconsciamente accettiamo di distruggere quel muro assurdo sceno che divide, ricalcando ottuso il misfatto già commesso di un tempo che discrimina. Thank you. sarai grande più di Icaro, ti guarderai volare.

sposare sogni, saggio l'uomo in bianco che ti indica la via verso regni senza fini dove il vento non esiste più. Thank you.